Pomeriggio a tutti e a tutte, siete di nuovo come ogni domenica pomeriggio all'ascolto della Fuga del Gatto su Wombat Radio o Radio Wombat, come preferite. È una piovosissima giornata di inizio novembre, chi ci segue in diretta, gli affezionatissimi lo sanno, e chi ci sente in podcast lo sapranno uguale dal titolo della puntata che si chiamerà col giorno di oggi. E prima di dimenticarmelo, vi ricordo subito tutti i nostri contatti del Wombat, a partire dal sito, che dovreste ormai saperlo, wombat.noblogs.org, l'account Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la pagina Facebook antipatica, facebook.com/radio-wombat-firenze, e la posta, se volete scriverci, darci consigli, dirci che si sente una merda o quello che vi pare, posta wombat@insiberia.net. Allora, oggi abbiamo un ospite importante in trasmissione e abituatevi perché sarà un ospite ricorrente e fisso della Fuga del Gatto. Ci racconterà un sacco di cose, colmerà moltissime mie lacune, perché io ve l'ho già annunciato, sono abbastanza nerd fan della musica classica, ma non è che ne so tantissimo, e quindi abbiamo Virginia con noi che ci aiuterà a dipanare certe curiosità e ci racconterà di alcune cose pruriginose e interessanti della storia della musica classica. Quindi ciao Virginia. Ciao, salve. E niente, ora iniziamo subito a entrare nel vivo, anche perché abbiamo un'oretta sola a disposizione e vi dobbiamo dire un sacco di cose, e quindi vedremo di correre, di darvi tantissime informazioni, di farvi sentire qualche pezzetto. Oggi non tantissima musica, pezzi scelti, piccoli, non troppo lunghi, ma vi racconteremo tante cose, perché oggi parliamo di Gilbert and Sullivan, che sono due personaggi buffi, molto importanti in realtà nella storia dell'operetta, e non solo, vedrete poi nel corso della puntata vi spiegheremo che hanno avuto influenze un po' in tutta la cultura musicale non, e però in Italia in realtà non è che proprio ce li consideriamo tantissimo, giusto? No, infatti, proprio perché vittime di tutta una tradizione operistica schiacciante e appunto importante, soprattutto insomma, in Italia gli studi su quella che viene considerata una forma minore del teatro musicale come l'operetta e poi, che è poi la genesi del musical che verrà, non ce la siamo mai considerata troppo a livello di studi, ma soprattutto non è mai troppo entrata nel nostro repertorio musicale e nella nostra, diciamo, memoria Beh, collettiva. anche perché in effetti mi viene in mente che il musical, anche proprio il musical stesso in Italia non è, cioè ora inizia un Esatto, e pochino. proprio questo è uno dei motivi, cioè il fatto che l'Italia abbia avuto una tradizione musicale e storiografica soprattutto, anche poi di messa in scena legata così tanto al teatro dell'opera lirica, ha fatto sì che poi come dire, passasse in secondo piano tutta una serie di forme artistiche, musicali che invece sono state fondamentali per lo sviluppo anche della musica pop e poi rock, eccetera, eccetera, che invece il mondo anglofono, come sempre avanti in questo, ha invece valorizzato e da cui poi ha tratto tantissimo. Gilbert e Sullivan, appunto, la scelta di oggi, sono proprio la genesi di tutto questo filone che poi nasce da loro e che arriva poi, passando attraverso il musical, arriva poi all'impostazione della musica pop in generale. Giusto, maledetta opera lirica che ha Esatto, rovinato tutto, tutto. Puccini, maledetto. Va bene, e quindi iniziamo a entrare un pochino nel dettaglio sia delle cose che facevano e dell'importanza che avevano questi due personaggi. Sì, diciamo che allora, come si diceva prima, loro influenzarono molto lo sviluppo del teatro musicale di tutto il XX secolo grazie a quest'uso satirico della rima nelle strofe che Gilbert appunto utilizzava e che verrà poi ripreso da tantissimi artisti, anche americani come Cole Porter, Gershwin ed altri, ma anche verrà poi ripreso da tutta una tradizione del teatro comico che arriva e comprende anche per esempio i Monty Python, perché no? E li ringraziamo Esatto, tantissimo per questo, per per averci dato esistere. i Monty Python. Gilbert inseriva nei testi dei vocaboli fantasiosi, dove l'assurdità, diciamo, erano prese come poi logiche e conclusioni, per quanto possibile. E fondamentalmente le liriche erano realizzate con doppie e triple rime e vennero poi prese a modello da tutti i librettisti dei lavori teatrali successivi e fondamentalmente da tutta la tradizione di Broadway per tutto il XX secolo. Quindi, appunto, come dicevo prima, proprio la genesi stessa di quello che noi oggi chiamiamo musical. Gilbert infarciva i libretti con situazioni assurde in cui l'ordine sociale era sempre messo, diciamo, alla berlina e soprattutto era messo sottosopra, questo termine topsy-turvy, appunto, che significa sottosopra, letteralmente. Che c'è un film È un film, anche. esatto, è stato ripreso poi nel film di Mike Leigh nel 99, ma è che è usato fondamentalmente per definire proprio le opere di Gilbert and Sullivan. Le rime di Gilbert si facevano gioco proprio di queste delle classi privilegiate inglesi e fondamentalmente mettevano in luce il divario tra i poveri e gli assurdamente ricchi e in generale la rigidità della gestione politica del periodo vittoriano. Certo, ma il film in realtà Topsy Turvy, io ho provato a cercarlo in streaming, ma non sono Non riuscita, è. però in realtà ho visto che comunque si trova da Sì, scaricare. e tra l'altro è un film molto, molto carino, molto divertente. Mike Leigh è un grande regista, premiato molte volte anche a Cannes con Vera Drake e altri film. È un regista molto inglese e, come tutti i registi molto inglesi, ha una cura particolare per la colonna musica e un amore particolare per il teatro e la cultura musicale in genere. Quindi questo suo film è l'opera che lui ha dedicato a Gilbert and Sullivan, che appunto noi non ce ne rendiamo conto, come diceva prima la Mari, ma per gli inglesi e per il mondo anglofono è una pietra miliare, come per noi può esserlo in maniera diversa, appunto Puccini piuttosto che Verdi, appunto, in maniera chiaramente diversa, Lì si no? capisce la Perché differenza. per loro è proprio, poi si dirà più avanti, ma le loro rime, le loro parole sono entrate proprio a far parte di una serie di riferimenti e citazioni in tutta la cultura anglofona e non poi nel tempo. invece Sullivan. E quindi le composizioni, chi faceva la parte del compositore? Sullivan fu ovviamente autore anche di molti altri lavori, oltre la collaborazione con Gilbert, poi lo diremo, lavori orchestrali, scrisse oratori, canzoni, inni, e soprattutto scrisse molti lavori interessanti basati su opere musicali tratte da Shakespeare. Musicava proprio, uno dei suoi primi lavori fu musicare La Tempesta di Shakespeare, quindi era fondamentalmente già legato al teatro musicale, cioè non era un compositore sinfonico, ma fondamentalmente nasceva come compositore di opere teatrali. Quindi per lui fu abbastanza normale, probabilmente al momento dell'incontro con Gilbert, di cui parleremo più avanti, tradursi in uno scrittore di memorabili e orecchiabili melodie, che riuscivano poi a esprimere questo umorismo e questo pathos, che era la base della scrittura di Gilbert. La Giusto. sua ingenuità musicale, paradossalmente abbinata ad altri elementi, gli fece raggiungere e anche superare la fama di molti altri compositori classici, magari anche più eruditi in un certo senso, più completi. Però proprio questa sua capacità di adattarsi alla parola, soprattutto poi alla parola di Gilbert, lo aiutarono, lo resero famoso, insomma. Sì, un uso della parola che in realtà appunto nella musica classica, non solo di quell'epoca, inglese era fondamentale. A me mi veniva in mente mentre parlavi che comunque il fatto di musicare le opere di Shakespeare era lunga tradizione inglese, mi Esatto. viene in mente Purcell, che era quasi contemporaneo, e non solo, e lo vedremo, ve lo rievocheremo spesso alla Fuga del Gatto perché io sono molto fanatica di queste cose e quindi l'approfondiremo. E facciamo già sentire un primo pezzo? Che ne dici? Sì, un estratto da una delle loro opere Sì, ora in più realtà vi famose. facciamo già sentire un estratto da The Sorcerer, però in realtà ve ne parliamo meglio dopo di Sì. quest'opera, quindi adesso iniziate a fare l'orecchio a questo tipo di vocalità e suoni e poi dopo vi spiegheremo meglio l'opera e tutto. Il pezzo si chiama Time Was When Love and I Were Well. Lo mandiamo e poi continuiamo a illustrarvi questi due strani personaggi. Time was when love and I were well acquainted. Time was when we walked ever hand in hand. A saintly youth with worldly thought untainted, none better loved than I in all the land. Time was when maidens of the noblest station, forsaking even military men, would gaze upon me rapt in adoration. On me, on me, I was a fair young curate then. Had I a headache, sighed the maids assembled. Had I a cold, welled forth a silent tear. Did I look pale, then half a parish trembled, and when I coughed, all thought the end was near. I had no care, no jealous doubts hung o'er me, for I was loved beyond all other men. Fled gilded dukes and belted earls before me. Pale young curate, on me, I was a pale young. Bene, e questo era il primo ascolto che vi abbiamo fatto sentire, come vi dicevamo, tratto da The Sorcerer, di cui poi vi spiegheremo meglio. Allora, abbiamo parlato un pochino, abbiamo accennato a questi due personaggi, Gilbert e Sullivan, ma andiamo un po' più a fondo della storia di Gilbert in particolare, che forse tra i due era appena appena un po' più interessante. Cosa ha fatto prima? Cioè, prima che si incontrassero, perché poi alla fine alla storia sono passati come il duo Gilbert e Sullivan, però insomma, cioè, avrà fatto anche qualcosa prima. Che gli era successo? Sì, esatto, già molto prima della collaborazione con Sullivan, Gilbert iniziò a scrivere delle storie illustrate, poemi ed articoli in prima persona, quindi già aveva una produzione di scrittura, diciamo, alle spalle, allo scopo di incrementare i suoi guadagni che poi avrebbe investito, come vedremo, nel teatro. I poemi pubblicati come Bab Ballads sono questi racconti brevi che poi vennero usati come spunto per la scrittura dei suoi lavori successivi, comprese le opere con Sullivan. Quindi la genesi del suo percorso è un po' questa. E queste Bab Ballads sono molto famose nella storia della scrittura e del teatro inglese. Gilbert le sviluppò attraverso questo stile piuttosto unico, dove la comicità veniva dall'impostare una premessa ridicola e poi lavorarci sopra, diciamo, fino alle logiche conseguenze, per quanto potessero essere logiche, ovviamente. Che poi appunto si capisce perché Monty Python, esatto, hanno ripreso. Brava. Gilbert produsse, diciamo, quasi la metà dei suoi 75 lavori, diciamo dal 1871, per dare un po' un parametro un po' di tempo. Vero, perché in effetti finora non esatto, vi avevamo dato date. Siamo un po' scollegate, però diciamo il periodo di cui si parla va dalla fine degli anni 60 in poi, dell'Ottocento in poi. Gilbert in particolare, appunto, quando comincia a scrivere, si rende conto che il teatro inglese versa già da un po' in uno stato di un po' di decadenza, di poca innovazione, di poca ispirazione. Non a caso molte delle opere che venivano date in Inghilterra, operette, erano in realtà francesi, italiane, e a volte tradotte malamente in inglese, come diremo poi anche di quelle di Offenbach, eccetera. E fu proprio Gilbert anche che aiutò a riformare, ad elevare questa, diciamo, chiamiamola rispettabilità culturale del teatro inglese, iniziando a fondare una compagnia, una propria enterprise, German Red Entertainment. Mm-hmm. E fu grazie a un compositore che lavorava inizialmente con lui, Albert Clay, che venne poi in contatto con Sullivan. Cioè, questo Clay li presentò nel 1869. E avvenne il grande incontro. Due anni dopo il grande incontro, i due realizzarono poi la prima opera in collaborazione tra loro. E qui iniziamo già a parlarvi, perché sì, poi ve ne faremo sentire un pezzettino. Esatto. E si parla appunto, stiamo parlando di Thespis. Thespis, la prima operetta in collaborazione tra i due. Mm-hmm. Bene, e allora Thespis, un'operetta, sì, che messa in scena a Londra. Sì, allora Thespis è ancora un'opera, non è ancora un'opera, diciamo, delle più complete dei due, anche perché è la prima in cui collaborano, quindi è un'opera che porta ancora dei caratteri un po' grezzi, se vogliamo, ancora un po' un linguaggio che poi i due svilupperanno. E sì, fu messa in scena a Londra nell'871 e venne poi replicata per 63 spettacoli, quindi ebbe un discreto successo. È una pantomima in cui gli dei dell'Olimpo, diventati vecchi e incapaci, vengono rimpiazzati temporaneamente da un gruppo di attrici e attori. Come vedete, c'è già il tema del metateatro, quindi sì, assomiglia anche un po' a Philip K. Dick. Sì, e viene poi da Shakespeare. Simulacri. Quindi comunque appunto c'è tutta una serie di riferimenti già. Il pezzo, diciamo, i pezzi principali fanno un po' il verso all'Orfeo, all'Inferno e alla Belle Hélène di Offenbach, che, come vi dicevo, tradotti in inglese, stavano dominando i teatri di Albion. Thespis fu appunto data nel 1871 e fondamentalmente però era un testo un po' preparato in fretta e l'argomento era un po' lasciato, diciamo, con un linguaggio un po' spinto che si basava molto sull'improvvisazione degli attori e due, tra l'altro, dei personaggi maschili erano interpretati da donne, le cui gambe, appunto, ben fatte, erano per una delle prime volte messe in mostra in uno scambio di ruolo piuttosto interessante che darà vita poi a una Infatti questo poi ne tradizione parleremo successiva. meglio dopo perché dopo si svilupperà ancora di più Esatto. questa cosa, però insomma è un aspetto piuttosto curioso del giocare tra i ruoli maschili e femminili Esatto. in un teatro che non era abituato No, certo a infatti. farlo. Anche perché appunto si sta sempre parlando di teatri tradizionali, tra virgolette, non appunto di vaudeville o di teatri più, tra virgolette, no, di nicchia. Cioè qui si parla di teatri Quello piuttosto serio. serio che dava appunto, che portava poi, per quanto l'Inghilterra ha una tradizione teatrale completamente diversa da quella italiana, che ora sarebbe impossibile raccontare per lungo, però per capirsi, appunto, comunque si parla di un teatro borghese, di un teatro in cui la società bene andava appunto, e quindi ecco, ancora maggiore l'impatto appunto di certi scambi, di certi ruoli, e in particolare di questo linguaggio di Gilbert, che già qui dall'inizio portava i semi di quella che poi sarebbe stata le sue caratteristiche, cioè di rottura, di provocazione, di contrasto e di messa alla berlina di tutta quella società che poi andava al teatro, fondamentalmente in Inghilterra. Che non si aspettava di essere No, che scandalizzata spesso così. nemmeno lo capiva, perché poi lui era molto furbo, che quindi lo nascondeva in realtà in piena vista. Una Se volpe. si pensa che gran parte della storia del teatro gli uomini avevano invece interpretato, no, i ruoli femminili sempre, qui c'è un'ulteriore tradizione, scusate, un'ulteriore rottura con la tradizione, facendo interpretare, seppure in un'opera minore che ancora non aveva la completezza e l'organico delle opere successive, però già qui c'era appunto un po' questo buttare appunto L'amo. l'amo. E ora vi facciamo sentire un pezzettino da Thespis. Sono tutti pezzi piuttosto piccoli in realtà. E questo qui dura 4 minuti e 29. E forse è uno dei più lunghi che vi facciamo sentire. Quindi oggi insomma potete andare tranquilli che non vi faccio i pipponi lunghissimi di mezz'ore. Si tratta appunto di Thespis, abbiamo detto, del 1871, come abbiamo raccontato, e siamo nel secondo atto ed è il finale. L'abbiamo preso brutalmente da YouTube, perché non è che sia facilissimo trovare in realtà questa musica, quindi insomma accontentatevi, però non è una brutta edizione, secondo me si sente abbastanza bene e è presa diretta dal teatro, dalla rappresentazione teatrale contemporanea, non ho visto quando, ma insomma si trattava di adesso, sarà stato ora o di qualche anno fa. E quindi ve la facciamo sentire, il secondo atto appunto di Thespis, il finale. Which of this interferes is more than we can stand? Of them make the clearest with your majestic hand. What fools these mortals be! Your threats to us ring hollow. I'm Jupiter. I'm Mars. And I'm Apollo. Jupiter, Mars, and Apollo have quitted the dwellings of men. The other gods quickly will follow, and what will become of us then? Oh, pardon us, Jove and Apollo, pardon us, Jupiter, Mars. Oh, see us in misery wallow, cursing our terrible stars. Jupiter, Mars, and Apollo have quitted the dwellings of men. The other gods quickly will follow, and what will become of us then? Oh, pardon us, Jove and Apollo, pardon us, Jupiter, Mars. Oh, see them in misery wallow, let us remain, we beg of you, bleedingly. Let them remain. Finisce un po' brutale. Questo appunto era Thespis, il secondo atto, e un po' straniante quasi per i nostri orecchi italiani, perché effettivamente assomiglia tantissimo già al musical moderno a cui siamo abituati, e pensare che l'equivalente nostro dell'epoca era appunto Puccini o l'opera e l'operetta italiana è strano. E in realtà invece appunto Thespis, appunto questa prima operetta un po' acerba, diciamo, ebbe un grande successo, che però poi chiaramente venne doppiato dalle successive opere più mature, giusto? Sì, esatto, nessuno ancora all'epoca di Thespis poteva immaginare che questo era l'inizio di una collaborazione che divenne poi appunto leggendaria tra questi due artisti, e che ancora in realtà, per quanto insomma lontano dall'opera lirica che noi concepiamo, ha ancora molto in comune insomma con la tradizione operistica del teatro musicale, che invece piano piano perderà, le opere successive perderanno fondamentalmente, e andranno sempre, come vedremo poi, andranno in una direzione sempre più moderna, tra virgolette. L'opera successiva, The Sorcerer, da cui abbiamo ascoltato già un estratto inizialmente in puntata, è del 1877 ed è la prima opera di lunga durata del duo. Ed è, inaugura questo filone che sarà definito Savoy Opera, dal nome appunto del Teatro Savoy di Londra, che in realtà doveva essere ancora costruito, finito insomma di costruire, ma il proprietario Cart era talmente interessato allo sviluppo di un'opera leggera inglese che rimpiazzasse poi appunto quei lavori francesi di cui si parlava prima, che dominavano le scene teatrali, che chiese a Gilbert e quindi a Sullivan un'opera comica che servisse da antagonista per le rappresentazioni appunto serali del teatro. E Gilbert trovò il soggetto in uno dei suoi brevi racconti che abbiamo citato prima, appunto, che aveva scritto prima dell'incontro con Sullivan, si chiamava The Lizard of Love, che riguarda un uomo d'affari londinese al quale capita, come in tutte le scritture di Gilbert, buffamente, di diventare uno stregone e un procacciatore di benedizioni non molto richieste e di maledizioni molto popolari. E ora ve lo facciamo sentire subito, così a bomba, così vi fate già un'idea. Questo è un pezzettino appunto che si intitola Spirits of Earth and Air, e non c'ho assolutamente scritto in quale atto si trova, ma vabbè, ve arrangiate, tanto in realtà si trova abbastanza facile. È uno dei temi principali appunto in cui lui evoca questi spiriti che gli servono appunto. Sì, anche questo è un ascolto abbastanza breve, quindi ma ci risentiamo tra pochissimo. Sentitevelo intanto. Of earth and air, fiends of flame and fire, demon souls come here in shows, this dreadful deed inspire. Appear, appear, appear. pallid ghosts, arise in hosts and lend me all your aid. Appear, appear, appear. Hark, hark, they assemble, these things of the night. Oh, Alexis, I tremble, seek safety and flight. With poison bags, discharge your loathsome loads, spit flame and fire, unholy choir, belch forth your venom toads. Ye demons fell with yelp and yell, shed curses far afield. Ye fiends of night, your filthy blight in noisome plenty. Number one. This is done. Number two. What to do? Number three. Eccoci qua alla fuga del gatto. Quello che avete sentito, appunto, se vi siete messi in ascolto adesso, era un pezzettino da The Sorcerer di Gilbert and Sullivan, Spirits of Earth and Air. E vi volevo, prima di proseguire, ricordare un pochino gli appuntamenti di quella che adesso, da adesso in poi, dovrebbe diventare la vostra radio preferita, penso. Allora, tra pochino, quando finiamo noi, verso le 6 all'incirca, non potete andarvene via, perché ci sarà 3000 siepi la trasmissione di gossip e informazioni sullo sport, il sudore e la fatica. Lunedì, per adesso, per il momento, non abbiamo trasmissioni in ponte, anche se vi preannuncio che prossimamente, tra poco, ce ne saranno almeno due che devono partire, ma per questa settimana ancora no. Martedì alle 19, il secondo appuntamento con Il rovescio della medaglia, trasmissione su Progressive. Mercoledì dalle 21, Slick Chick, alle 22.30, 8 Hertz. Giovedì alle 19, l'Accademia della Brusca, l'imperdibile appuntamento con la linguistica. E basta, e poi venerdì, per adesso ancora niente, anche se, vi ripeto, abbiamo delle sorprese in serbo per voi. Sabato probabilmente vi rivogheremo dei live, registrazioni di concerti famosi e non, ma non da questa settimana ancora, dobbiamo prepararci un po'. E la domenica, come sempre, che ve lo dico a fare, alle 16.30 la fuga del gatto e a seguire 3000 siepi. Questo era giusto per darvi un po' di appuntamenti, in modo che non vi ricordate, non vi dimenticate di seguirci e prendete appuntamenti stupidi, inutili, al posto di sentire noi. Proseguiamo con eravamo su The Sorcerer e appunto eravamo su abbiamo un pochino anticipato, un po' spiegato il primo interesse verso quest'opera, ma in realtà quello che non vi abbiamo detto finora è la particolarità che riguarda la tecnica proprio. Ci vorremmo un po' addentrare su il come lavoravano a livello teatrale Gilbert e Sullivan e anche cosa hanno portato di cambiamento nella tecnica proprio lavorativa, su come non solo su come si scriveva, sui temi eccetera, ma anche proprio su come si allestiva uno spettacolo teatrale, le scelte che venivano fatte e il perché. E quindi proviamo a approfondire anche questo aspetto. Sì, allora, prima di questo lavoro, diciamo, Gilbert costruiva i suoi libretti, i libretti che gli venivano commissionati dai vari teatri, su misura per gli interpreti che i teatri avevano, quindi su misura per i cantanti famosi che i teatri avevano a disposizione e che gli commissionavano poi le opere, come avvenne anche ancora nel caso di Thespis, la loro prima opera, cioè ancora era appunto costruita un po' su personaggi che già esistevano, su artisti già esistenti e quindi adattata alle loro capacità vocali. La The Sorcerer in avanti, disponendo appunto anche di maggiore libertà creativa, avendo avuto grande successo e grazie a questa collaborazione che abbiamo accennato con Carter, futuro appunto costruttore del Savoy, Gilbert non volle più lavorare con grandi nomi, con grandi attori a cui si doveva adattare, a cui doveva adattare il suo libretto e quindi un po' anche piegarsi alle loro caratteristiche, ma volle creare egli stesso, quindi modellare, plasmare gli attori da attori magari sconosciuti, cantanti ancora non troppo famosi, attraverso il successo delle sue opere, portarli appunto a una maturità e a una capacità maggiore. E così lui e Sullivan selezionavano gli attori e scrivevano i loro lavori per un intero cast e non più per delle star singole. E questo appunto paradossalmente sembra una grande rivoluzione in avanti. In realtà, chi conosce un po' la storia del teatro della storia appunto anche un po' del teatro europeo in generale, è un po' un ritorno al canovaccio, cioè nel senso paradossalmente è un salto avanti che però ha radici molto antiche, cioè già nella commedia dell'arte si scriveva appunto, e grazie poi alla rivoluzione che Goldoni apportò, si scriveva parti non ad hoc, si scriveva parti più o meno interscambiabili che si basavano su dei personaggi che ricorrevano nelle varie opere e che gli attori potevano, a seconda del loro registro, in questo caso dei cantanti, interpretare liberamente passando appunto da un lavoro all'altro senza che il lavoro dovesse essere scritto appositamente per loro. Cosa che peraltro succedeva anche nell'opera, mi viene in mente, perché anche nell'opera c'erano opere scritte più per appunto ruoli, esatto, che potevano ricorrere, che si prestavano bene a, che ne so, i soprano in generale, e invece più in là ci sono state opere che erano scritte sulla, pensate proprio per la singola star dell'epoca. Esatto, Gilbert tra l'altro appunto dette vita a una figura piuttosto appunto innovativa della tecnica teatrale, perché supervisionava proprio personalmente l'allestimento delle scene e dei costumi, cosa che prima il librettista assolutamente non faceva. Cioè il librettista dai tempi proprio della musica, dal giorno zero, fondamentalmente scrive il libretto e non si occupa appunto di tutta la messa in scena, mentre lui supervisionava tutto e si occupava anche della regia. Quindi proprio Gilbert assume un ruolo piuttosto completo, quasi più vicino alla concezione wagneriana, anche se ovviamente in questo caso il paragone non, ante litteram. Sì, non regge, perché ovviamente, però è per far capire appunto che insieme a Sullivan, che si occupava direttamente dell'orchestrazione del lavoro, il risultato porta a un rinnovamento totale rispetto al tradizionale modo operandi del teatro musicale inglese, non fino a quel momento. Quindi creando questo repertorio di caratteri simili tra opera e opera, permettevano agli attori di poter passare da un ruolo all'altro, no? Quindi attori quasi sconosciuti, ingaggiati per la messa in scena di The Sorcerer, per esempio, rimasero poi per molti anni nella produzione di Gilbert e Sullivan con altre opere in altri ruoli e divennero poi, alla fin fine, poi comunque delle stelle del teatro vittoriano, che non avrebbero mai avuto questa possibilità magari inizialmente se rimanevano relegati ai ruoli minori. Un'altra cosa molto interessante, ancora non si è detta, ma che si, insomma, che si troverà riscontro più avanti, è il ruolo del coro, che in Gilbert e Sullivan, a differenza della concezione dell'opera in classica, lirica, come siamo abituati a pensarla, il coro rimane sempre un po', per quanto è importante, per quanto è in secondo piano rispetto al solo, no? Al contorno, momento, esatto. Mentre il coro in Gilbert e Sullivan ha un ruolo non marginale, ma quasi sullo stesso piano spesso da tradizione solisti. Anche di Shakespeare, esatto, e che poi sarà di nuovo una base del musical, perché poi il musical di tutto quello che si intende col mega contenitore del musical moderno, nei momenti di, se tutti pensiamo ai più grandi musical, il momento del concertato e del coro si innesta quasi sempre poi, no? Non rimane mai in secondo piano, ma si innesta sempre e va spesso al pari dei protagonisti. Molto classica, molto anche la tragedia classica, dove esatto. Comunque il coro aveva un suo ruolo specifico, fondamentale, certo, e serviva importante. Anche a contribuire a raccontare la storia meglio. Sì. Certo. E va bene, e quindi abbiamo finito su The Sorcerer e iniziamo ad andare avanti sulle altre opere? Sì, praticamente appunto questa introduzione sul cambio della tecnica ce l'abbiamo fatta, non perché siamo solo delle nerd, ma c'era un perché e serve a far capire come questo percorso di Gilbert e Sullivan si stia spostando poi verso le opere maggiori e che daranno a loro i primi successi internazionali, quindi anche fuori dall'Europa, che sono appunto HMS Pinafore del 1878, che è una satira sugli ufficiali incompetenti della Marina di Sua Maestà Britannica e sull'ossessione tutta inglese per lo stato sociale. Che è una cosa, cioè, di una modernità, esatto, infatti, allucinante. Sì. E ti fa capire anche quanto poco gli inglesi si siano spostati da questi schemi, che è preoccupante. E poi questo lavoro ebbe appunto, come si diceva, il primo successo internazionale, cioè gli dette visibilità anche all'estero, e questo però poi portò anche al rovescio della medaglia, cioè che negli Stati Uniti, per esempio, molte versioni di Pinafore, di quest'opera, venivano fatte un po' piratate, prendendo degli estratti, non devolvendo gli amati diritti d'autore agli autori inglesi, e questo portò poi a far arrabbiare Gilbert e Sullivan, che per risposta a questo pirataggio scrissero proprio Pirate of Penzance del 1879, contro i pirati americani che avevano infranto la sacra legge del copyright nel loro lavoro e metteva alla berlina in generale le convenzioni dell'opera, il senso del dovere, gli obblighi familiari, la rilevanza di un certo tipo di educazione, ed è una delle opere più belle, forse più interessanti, Pirate of Penzance. Cosa che peraltro gli americani continuano a fare, di copiare spudoratamente, certo. Magari gli danno le royalties a questo giro, esatto. Hanno imparato, magari che sennò sì. Poi se la prendono, però comunque sia... È di tradizione. D'altra parte, sempre una colonia era inglese in parte, quindi... Il malvoluto. Infatti, a un certo punto ti attacchi. E sì, sentiamo un primo pezzettino di Pirates of Penzance, che è difficissimo da dire Penzance. Non so se lo sto dicendo giusto. Ma neanche io. Così. Vabbè, tanto penso tanto. Che nessuno di voi che ci ce sta ascoltando lo sa, non l'aveva mai sentito dire, quindi fatti vostri. E, siamo nell'atto primo e questo pezzettino che vi facciamo sentire si intitola Poor the Pirate Sherry. For the pirate's sherry. Atlantis rises from indenture freed. Strong his arm and keen his scent is, he's a pirate now indeed. Here's the mark of red his ventures, red his out of his inventors. 22 now he's rising, and alone he's fit to fly, which we bent on signalizing with unusual red eye. Here's good luck to friend his ventures, friend his out from his inventors. For upon a pirate ship, will the pirate move, and to make us all a very end, the pirate out the Frederick, from today you rank as a full-blown member of our band. Aye! My friends, I thank you all from my heart for your kindly wishes. Would that I could repay them as they deserve. What do you mean? Today I am out of my indentures, and today I leave you forever. But this is quite unaccountable. A keener hand at scuttling a Cunarder or cutting out a piano never shipped a handspike. Aye! Yes, I have done my best for you. And why? It was my duty under my indentures, and I am the slave of duty. As a child, I was regularly apprenticed to your band. It was through an error. No matter, the mistake was ours, not yours, and I was in honor bound by it. An error? What error? I may not tell you. It would reflect upon my well-loved Ruth. Nay, dear master, my mind has long been gnawed by the cankering tooth of mystery. Better have it out at once. E vi abbiamo fatto sentire anche un po' di parlato per apprezzare un pochino anche di sano accento inglese, che non so se a voi ve ne frega qualcosa, a me piace un sacco Original. Sentire. Bello, tutto molto musicale. E continuiamo un pochino a parlare appena un pochino dei pirati, perché appunto non è proprio frequente, soprattutto a noi italiani, sentir parlare di un'opera, un'operetta che racconta dei pirati sembra una cosa estremamente esotica, però in effetti loro, insomma, i pirati era argomento quotidiano, dalla Repubblica in prima pagina, colonna dei gattini quasi. Sì, ovviamente ancora una volta Gilbert gioca su tutta una tradizione di immaginario sui pirati che l'Inghilterra ha, dalla regina Elisabetta e quindi da Drake, dai bucanieri al soldo del regime, fino ai pirati veri, quelli proprio amati dai compagni anarchici, e ne fa come sempre un uso satirico, un ribaltamento semantico e non, per spiegare appunto che questi pirati appunto hanno in realtà poi tutta una serie di problemi sul controllo, sull'ordine, perché non, appunto non sono altro che mezzi per rappresentare poi la società inglese, quindi usare il nemico, il pirata, insomma il cattivo, per poi in realtà farne uno specchio di sé e capire che non siamo nient'altro appunto che noi, insomma, che quello che lui voleva dire era questo fondamentalmente, usare uno stereotipo, come sempre faceva, ribaltarlo e cercare di dargli un senso di critica, appunto, di renderlo vicino, esatto, a noi stessi. Esatto, usarlo. Va bene. E questo per quanto riguardava i cattivissimi pirati. E invece poi c'erano le donne. Eh sì, è interessante, uno dei pochi autori inglesi che si confronta con questo tema in generale, appunto, dello sciovinismo maschile militare, che, appunto, su cui l'Inghilterra, ahimè, è fondata, la cultura inglese è fondata, e attraverso tre opere successive, diciamo, è stata rifletta di opere che dal 1881 al 1884 Gilbert e Sullivan mettono in scena. E la prima è Passions, appunto, in cui in particolare si satirizzava i movimenti artistici di stampo romantico, in generale il poeta ed esteta britannico, Swinburne in particolare, e esprimendosi, appunto, Gilbert si esprimeva contro la vanità maschile e in particolare contro lo sciovinismo, appunto, di tutta una certa elite culturale che doveva, insomma, essere così avanti e aperta, in realtà poi riproduceva spesso stereotipi e eccetera. e riduceva la donna spesso comunque appunto soltanto a una musa, soltanto a una... un oggetto da creatura. Ammirare, esatto. Durante le rappresentazioni di Passions, Cart, il famoso Cart, inaugura il Savoy Theatre, che diverrà la sede permanente, appunto come si diceva prima, delle rappresentazioni di Gilbert e Sullivan e uno dei teatri più famosi, comunque in genere, la storia londinese. Yolande, l'opera del 1882, è la prima delle loro opere che viene messa in scena al Savoy e mette alla berlina, in particolare in questo caso, le leggi inglesi e la Camera dei Lord, e parla in specifico della guerra tra i sessi, quindi di questa eterna battaglia, e in particolare in quel momento appunto legata proprio a una serie di leggi emanate dalla Camera dei Lord. Princess Ida invece, che conclude questo trittico del 1884, satireggiava invece sull'educazione femminile e sullo in particolare su, appunto, sullo sciovinismo maschile, sull'educazione femminile appunto ristretta e repressa e contenuta, cosa su cui avrebbero dovuto dire tante, esatto, cose anche in Italia, soprattutto in quel periodo sotto Vittoria, perché appunto è stato uno dei periodi di maggiore non a caso, se si pensa a Lewis Carroll e il suo Alice, che è proprio questo grido di rivolta contro appunto questa repressione, questa educazione repressiva delle classi, paradossalmente poi delle classi più agiate, e soprattutto sulle bambine, sulle donne, che darà poi il via a tutta una letteratura che arriva e comprende Virginia Woolf e tutta una serie di fortunatamente di donne. Mi viene in mente, data la mia cultura fantascientifica e cyberpunk, mi viene in mente l'era del diamante, dove di Stephenson, dove appunto si fa il verso ai sussidiari per le giovani educande, esatto. In toni steampunk, vabbè, lì in realtà, però no esatto, una, cioè, satira che era importante evidentemente, si sentita. Pensa appunto che Gilbert ha anche questo merito di aver almeno insomma accennato in un teatro appunto piuttosto tradizionale, però ad aver accennato a queste problematiche, e quindi una sensibilità insomma ulteriore di quest'artista per tutto il mondo sociale e politico che lo circondava. Insomma. Era sul pezzo, insomma. Diciamo, abbastanza, nonostante poi vengano considerate cose tra virgolette da conservatorio, appunto in realtà avevano dei bei input in avanti, diciamo. Un certo spessore. Sì. E vi facciamo sentire, non abbiamo tantissimi altri pezzi da farvi sentire, questo è uno degli ultimi, e da Princess Ida, Whenever I Spoke Sarcastic Joke, è un pezzettino piccolino anche questo, divertente, sentitevelo. Sarcastic joke replete with malice spiteful, these people mild politely smiled and voted me delightful. Now when a white sits up all night ill-natured jokes devising, and all his wiles are met with smiles, it's hard, there's no disguising. Ah, oh, don't the days seem lank and long when all goes right and nothing goes wrong, and isn't your life extremely flat with nothing whatever to grumble at? Oh, isn't your life extremely flat? When German bands for music stands played Wagner imperfectly, I bade them go, they didn't say no, but off they went directly. The organ boys, they stopped their noise with readiness surprising, and grinning herds of hurdy-gurds retired apologizing. Ah, oh, don't the days seem lank and long when all goes right and nothing goes wrong, and isn't your life extremely flat with nothing whatever to grumble at? I offered gold in sums untold to all who'd contradict me. I said I'd pay a pound a day to anyone who kicked me. I'd bribe with toys great vulgar boys to utter something spiteful. But bless you, no, they would be so confoundedly polite for. Ah, in short, these aggravating lads, they tickle my taste, they feed my fads. They give me this and they give me that, and I've nothing whatever to grumble at. Questo era appunto un pezzettino tratto da Princess Ida del 1884, anche se sembrava molto molto molto più moderno e attuale, ma in realtà era vecchiotto. E adesso niente, siamo arrivati ai grandi fasti, ai momenti di grande successo, nonostante le serrate satire che evidentemente appunto non coglievano tanto bene. E però e poi a un certo punto arriva la crisi. Eh sì, come dicevano i Blue Vertigo all'epoca, la crisi arriva la crisi e quando arriva questa situazione è tremenda. Però dopo un periodo di crisi, appunto questa crisi creativa e di dissenso artistico proprio tra i due, perché fondamentalmente fin dall'inizio questi due artisti, librettista e compositore, hanno una, in realtà anche una grande differenza di vedute e fondamentalmente dovuta al fatto che Sullivan era molto meno incline allo scontro e alla provocazione rispetto a Gilbert, aveva una, diciamo, un'indole più accomodante e soprattutto una visione un po' più di pace tra le classi, se questo mai sia possibile. Però comincia appunto Sullivan via via a desiderare un maggiore realismo emotivo, maggiore profondità rispetto invece a questa vena comica che a volte appunto in Gilbert si spinge veramente all'estremo, anche grazie appunto alla satira. E quindi diciamo, cioè, dal 1884 in poi c'è un po' un momento di crisi e di dissenso tra i due che si allontanano, appunto, vedremo momentaneamente. E Gilbert però qui diciamo viene fulminato un po' sulla via di Damasco, perché grazie a, diciamo, alla visita di alcune esposizioni, tra cui la grande esposizione di Londra, si innamora, si avvicina, sviluppa un gusto per l'arte orientale. Sì, che poi era effettivamente la cosa del momento, diciamo, la novità, esatto, del momento, esatto. E la pruderia del momento, perché anche, ma mica soltanto ovviamente, In Inghilterra basta pensare agli impressionisti francesi e al loro amore per le stampe giapponesi dell'epoca Edo e a me viene in mente Monet e la sua immensa collezione di stampe giapponesi e poi tutta l'influenza che ha avuto l'arte giapponese anche nell'arte appunto impressionista, ma non solo, perché insomma diciamo in tutta l'arte di quel periodo anche cosiddetta occidentale. Esatto, soprattutto perché l'Inghilterra poi appunto colonizzando poi i paesi dell'Asia, tra cui il Giappone, aveva poi un collegamento diretto proprio con le merci di grande qualità, e tutto quello che arrivava poi da là chiaramente veniva visto, veniva ammirato e conquistava appunto questo gusto europeo, influenzandoli, come diceva appunto, in tanti campi, e in particolare Gilbert fu proprio fulminato da questa estetica orientale, da questi personaggi appunto esotici e interessanti, e cominciò a scrivere il libretto di quella che sarebbe passata alla storia come la più famosa opera del duo inglese, il loro capolavoro The Mikado. Che poi appunto ne parleremo approfonditamente, però la cosa che salta all'occhio è che ne parlano in maniera non tipicamente da colono tipico come facevano i loro contemporanei, ma sempre con questo gusto ironico, sottile, in parte veramente british, va detto, però dissacrante e molto interessante, senza arrivare al razzismo che invece brutale veniva... Esatto. Spesso usato. Come sempre Gilbert si fa beffe della rigida burocrazia inglese e delle poesie della sua società colonialista, attribuendole apparentemente al popolo giapponese Quindi usa appunto il popolo giapponese per in realtà far parlare, mettere alla berlina gli inglesi, creando di nuovo appunto un rovesciamento di senso a lui tanto caro, appunto un famoso topsy-turvy, che dir si voglia, cioè un parlare appunto di sé attraverso però la voce dell'altro, dell'alterità, del diverso. Quindi queste figure, questi giapponesi interpretati da attori inglesi che mettono alla berlina il sistema appunto di idee colonialiste, di stereotipi, e quindi mettono alla berlina se stessi poi. E De Mikado è l'opera di teatro musicale più rappresentata della storia del teatro. E si pensa che appunto per 672 rappresentazioni, cioè andò avanti per 672 rappresentazioni, quindi una cosa straordinaria, e che non aveva appunto nessun precedente nella storia dell'opera musicale inglese, ma credo in generale europea, penso. Questo dà la misura di quanto quest'opera sia stata appunto una pietra miliare e quanto poi, come diremo poi più avanti, abbia dato vita e ispirato tantissimi altri lavori successivi in campi appunto diversi, come il musical e come altre forme. Anche perché il mondo orientale poi ha influenzato, esatto, in generale la cultura anglosassone in maniera brutale anche dopo, anche nel Novecento. Grazie a questa linea stilistica lui aveva proprio indovinato quello sarebbe stato poi un gusto che poi appunto sarebbe rimasto e avrebbe conquistato poi la cultura. Ci aveva dato. C'è niente da fare. Avanti. E facciamo sentire appunto uno degli estratti più famosi appunto, mm-hmm, e più interessanti forse, sì, che viene detto The List. In realtà io l'ho trovato sotto il, perché chiaramente essendo piccole estratti arie non hanno sempre lo stesso titolo, certo. Si trova anche come As Someday It May Happen. E Un altro pezzettino piuttosto piccolo, ve ne faremo sentire in tutto due tratti da Mikado, l'altro tra a breve, e poi continuiamo a parlarvi in chiusura delle influenze che questi due personaggi strani, Gilbert e Sullivan, hanno avuto nella cultura tutta, possiamo dire, anche quella più pop e contemporanea. Ma adesso sentiamo appunto questo primo estratto, Someday It May Happen, o The List. Someday it may happen that the victim must be found. I've got a little list of society offenders who might well be underground and who never would be missed, who never would be missed. There's the pestilential nuisances who write for autographs, all people who have flabby hands and irritating laughs, all children who are up in dates and floor you with them flat, all persons who in shaking hands shake hands with you like that, and all the persons who on smiling tater-tates insist, they'd none of them be missed, they'd none of them be missed. He's got them on the list, he's got them on the list, and they'd none of them be missed, they'd none of them be missed. And that nigger serenader and the others of his race and the piano organist, I've got them on the list, and the people who eat peppermint and puff it in your face, they never would be missed, they never would be missed. Then the idiot who praises with enthusiastic tone all centuries but this and every country but his own, and the lady from the provinces who dresses like a guy and who doesn't think she waltzes but would rather like to try, and that singular anomaly, the lady novelist, I don't think she'd be missed, I'm sure she'd not be missed. He's got her on the list, he's got her on the list, and I don't think she'll be missed, I'm sure she'll not be missed. And that nicey private nuisance who just now is rather rife, the judicial humorist, I've got him on the list. All funny fellows, comic men and clowns of private life, they'd none of them be missed, they'd none of them be missed. And apologetic statesmen of a compromising kind, such as, what do you call him, Thingamabob. Likewise, never mind. And what's his name? And also, you know who? The task of filling up the blanks I'd rather leave to you. But it really doesn't matter whom you put upon the list, for they'd none of them be missed. They'd none of them be missed. You may put them on the list, you may put them on the list, and if none of them be missed, they'll none of them be missed. E rieccoci, l'avete sentita la divertentissima, secondo me, Someday It Might Happen, o anche detta The List, come avrete potuto sentire. Salutiamo la nostra amica Nenia, che secondo me ci sta ascoltando e che secondo me gradirà questi pezzettini buffi. E cos'era questo pezzo che abbiamo appena sentito? Questo pezzo che abbiamo sentito appunto era l'emblema di tutta l'amore che gli inglesi hanno per i tribunali, i giudizi e la burocrazia. Era una lista appunto su cui stanno tutti quelli che offendono il buon costume, il buon comportamento, chiaramente ironico, come sempre, il ribaltamento. Lui legge la lista e in realtà è lunghissima lista, proprio lui la srotola e fa capire che in realtà da questa lista poi non si salva nessuno, quindi bene o male, qualunque cosa tu possa fare, tanto qualcosa di male sbagliato lo fai e nella lista ci finisci. Tutto va a San Cipolle. E diciamo che nomina appunto alcuni casi, tipo la donna che scrive racconti, piuttosto che l'umorista che prende in giro la società, piuttosto che appunto tutta una serie di personaggi che comunque finiscono nella lista degli offender, cioè di quelli che offendono e che mettono alla berlina. Credo che Gilbert stesso sia stato il capo di questa lista. Se davvero... Se ce n'è mai stata una. Lui forse era il primo. Però questo è molto carino, fa capire proprio come le idiosincrasie, l'amore per appunto per il giudizio e per il potere esercitato in un certo modo siano proprio intrinseche alla cultura inglese. E ora facciamo sentire l'ultimo pezzettino, che è la più famosa, sì. L'aria che viene rifatta un po' da tutti, anche se anche quella di prima veniva, sì. Mi dicevi prima fuori dai microfoni che soprattutto è stata fatta spesso, fra l'altro non è neanche troppo semplice. No, insomma. Anche perché sono tutti giochi di parole, quindi bisogna avere un'audizione al di là del canto proprio buona per riuscire a andare veloce e dire le parole quasi come non so le lingue, appunto. E questo era, cioè il prossimo invece è Three Little Maids from School, sempre tratto da Mikado. Mikado. E basta, ve lo facciamo sentire? Diretti? Sì, direi, poi. Poi magari approfondiamo un po' meglio dopo. Vai. From school are we, part of schoolgirl well can be, filled to the brim with girlish glee. Three little maids from school, everything is a source of fun. Nobody's safe or we care for none. Life is a joke that's just begun. Three little maids from school. Three little maids to all unwary, come from a lady's seminary. From a genius to Teleri. Three little maids from school. Three little maids from school. One little maid is a bride, yum yum. Two little maids in attendance come. Three little maids is the total sum. Three little maids from school. From three little maids take one away. Two little maids remain and they won't have to wait very long, they say. Three little maids from school. Three little maids from school. Three little maids who all are wearing. Come from a lady's seminary. Three from a genius to Teleri. Three little maids from school. Three little maids from school. Questa era, come abbiamo detto, Three Little Maids from School, e avevo sentito un coro importante, come abbiamo un po' anticipato precedentemente, e un pezzettino molto divertente. Sì, qui il coro appunto si inserisce in maniera proprio organica, diviene importante tanto quanto le voci delle tre protagoniste, che sono appunto queste tre scolarette giapponesi, che appunto escono dal seminario, escono da scuola e che rappresentano poi lo stereotipo di tutto questo discorso sull'educazione femminile, no? Di come queste tre scolarette ingenue in realtà poi appunto si dimostrino molto poco ingenue da quello che dicono. E il coro qui appunto entra e prende importanza e questa è una, come si diceva, la dimostrazione di una delle innovazioni di Gilbert e Sullivan che apriranno poi la strada al musical moderno. Questo forse è uno dei pezzi che ricorda più i musical come noi siamo abituati ad intenderli, in cui c'è questi brevi scambi tra le voci sole e poi il coro, che come spesso succede nei musical diventa parte, in certi momenti diventa parte del tutto e prende poi un po' il sopravvento, no? Esatto. E questo appunto è proprio un esempio ed è uno degli estratti più famosi da Mikado, perché è uno dei più divertenti. Infatti anche il film di Mike Lee che si citava prima, Topsy Turvy, dedica proprio un momento del film tutto a questa piccola area, perché la riproduce in maniera veramente filologica, esatta, proprio come il regista pensa che fosse all'epoca di Gilbert e Sullivan, e che fa capire appunto che ha una grande importanza insomma nel loro repertorio. E poi, come tutte le cose, a volte anche un po' fortuitamente rimane impressa nella memoria più di altro, magari anche più di altro, forse chissà, è più importante, ma i misteri della musica. E prima di lasciarvi, a questo punto ve l'avevamo un po' promesso e vi raccontiamo tutta lo stuolo di influenze che hanno avuto Gilbert e Sullivan nella cultura tutta contemporanea e non pop, sì, e non cinema, libri, di tutto un sì, po'. Sì, diciamo che vabbè, Gilbert e Sullivan poi proseguiranno il loro percorso un po' a fortune alterne con opere più o meno importanti insomma negli anni, fino poi allo scioglimento della loro collaborazione. Resta però, al di là insomma del declino un po' finale, resta poi tutto appunto una serie di riferimenti e di tributi che la cultura musicale non ha dato a questi due personaggi, ma davvero poi nei campi più impensati a volte, tipo si può prendere per le cose più vicine a noi, forse che noi conosciamo meglio come non più giovani, i Simpson, per esempio. In un episodio dei Simpson, anzi in molti episodi, perché i Simpson hanno molti riferimenti alle opere di Gilbert e Sullivan, sono dei fan, forse Matt Groening evidentemente un fan, ma nell'episodio per esempio Il Promontorio della Paura, Bart Simpson chiede a Telespalla Bob di cantare l'intera opera HMS Pinafore come ultimo desiderio, facendo sì che il coltissimo Telespalla Bob, il melomane Telespalla Bob, perda tempo e si dimentichi di uccidere Bart cantando Gilbert e Sullivan. In un altro episodio la famiglia Simpson canta Three Little Maids, appunto quello che abbiamo appena ascoltato, mentre si dirige appunto a una nuova casa che hanno. Nell'episodio Homer nello spazio profondo, Barney, per la prima volta sobrio, sì, schiocca infatti, le dita, incredibile, mentre canta un verso di I am the very model of a modern major general, dalla canzone appunto Major General Songs, tratta da Pirate of Penzance. Quindi vedi anche il vecchio Barney quando è nei suoi panni, ne sapeva, è un grande, perché non è mai sopra, insomma, è che lo so, quei pochi momenti, perle, esatto. Quindi ecco, ce n'è molti. E si diceva poi insomma in altri campi, come per esempio, no, nella letteratura. Sì, nella letteratura, che poi appunto ci sono riferimenti probabilmente meno espliciti ma più di sottofondo, e alcuni proprio invece espliciti, come in Asimo. Esatto, in Girotondo, una breve storia tratta da Io Robot, i due protagonisti incontrano un robot che si trova in uno stato di ubriachezza e canta There Grew a Little Flower, che è un tema tratto da Radigor, che è un'opera scritta subito dopo Mikado. E tra l'altro Asimov era un ammiratore di Gilbert e Sullivan e scrisse altre storie facendo riferimento alle loro opere, compresa una, si chiama Scambio sconveniente, in cui un viaggiatore temporale cerca di salvare l'opera Thespis, appunto una della prima opera dei due, Gilbert e Sullivan, dall'oblio. Quindi insomma, vediamo che i riferimenti non sono solo nei cartoni animati. Un altro interessante, così buffo, il personaggio di Salla nei I predatori dell'arca perduta del 1981, Indiana Jones, canta un motivo sempre tratto da Pinafore, quando è sovraccitato, quando è felice. Quindi, insomma, e Griffin, anche Griffin, ci stavamo dimenticando, sì, importantissimi, sempre per esatto. Riferimenti culturali molto alti che abbiamo noi. No, sì. E durante l'episodio Lois uccide Stewie, quest'ultimo sciorina la lista di persone che vorrebbe uccidere sulle note appunto de list di Mikado. Sì, che spesso magari ci sono un sacco di riferimenti che noi, essendo italiani e non conoscendo bene queste cose, non li cogliamo, e poi in realtà ce ne sono 2000. Esatto, sì, ma proprio anche se si guarda i film in lingua originale, tantissimi film comici e così, ci si accorge che hanno un sacco di riferimenti alle opere di Gilbert e Sullivan, che poi però non vengono magari riportati in fase di traduzione, purtroppo, del testo del film, e quindi ce li perdiamo, come spesso ci perdiamo in gran parte. Grazie alla nostra amata tradizione del doppiaggio. Maledetta. Che è tanto bella, però. Maledetta. Ci priva poi di tutta questa cultura di riferimenti, ma vari. Bene, e io direi che abbiamo detto veramente tutto quello che potevamo dire, e, almeno quello che ci consentiva questa oretta di trasmissione. E niente, vi lasciamo con la nostra piccolissima sigla e soprattutto vi lasciamo in compagnia di 3000 siepi, quindi assolutamente non abbandonate Wombat Radio e continuate ad ascoltarci. Un saluto a Virginia, grazie che ci ha detto tutte queste cose bellissime. Grazie a voi. E vi ringrazio a voi che ci avete ascoltato e alla prossima puntata della Fuga del Gatto. Ciao. Stay Wombat. Thank you.